24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. L'attacco mediatico che mi hanno fatto è vergognoso, è evidente che quello è uno scontrino, peraltro non erano neanche mutande verdi. Così parlò l'ex presidente della regione Piemonte Cota, quello delle famose mutande verdi, che non erano verdi, peraltro, un attacco mediatico vergognoso, insomma non erano verdi. Di che colore erano le mutande di Cota? Si apre dibattito, urge dibattito, come si soleva dire più nella sinistra, urge dibattito, le mutande verdi di Cota. Allora, sono le 6:33 minuti, cari italiani, cari ascoltatori, se siete svegli bene, se no siete dei debosciati, lo sapete, questo ormai è quello che vi dico. Il numero per i vostri messaggi è 349-238-6666. È sveglia Miriam Lucchetti in redazione da Mo. È sveglio Peter Bescapè in regia da Mo. Già due bombardini oggi. Lui che è il presidente del partito del bombardino, di cui io sono il tesoriere, vi ricordo. Custodisco le bottiglie, custodisco ed elargisco ovviamente le bottiglie. Apriamo subito il Parlamento, dai. Okay. Questo mercoledì alle 6:33 una nuova puntata di Evviva le Russe con Alessandro Milan e Paola Saluzzi e qualche altro ospite di cui non ce ne frega assolutamente nulla. Ma no, poveretti, poveretti gli altri ospiti. Paola Saluzzi, buongiorno. Ma questo già è geniale, io sono commossa. Buongiorno miei stupendi ragazzi del mercoledì. Cioè, ma tu hai capito, i nostri amici della segreteria telefonica cosa ci lasciano? Vabbè, no, divini. Possiamo risentirla adesso la facciamo. Perché ce la siamo un po' persa. Mi dispiace soprattutto per gli altri ospiti. Che non è vero. Anzi, saluto subito Luca Didi, l'altro ospite di cui ci interessa meno. No, direttore, direttorissimo, sono in ginocchio. Guarda, mi allontano dal microfono. Luca Didi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Però vogliamo risentirlo perché non è male. Questo mercoledì alle 6:33 una nuova puntata di Evviva le Russe con Alessandro Milan e Paola Saluzzi e qualche altro ospite di cui non ce ne frega assolutamente nulla. No, Luca Didi, di qualcosa, ribellati. È troppo bello. No, ribellati. Però insomma è così, è arrivata Paoletta, è arrivata questa. Io twitterò una copertina di un libro molto bello che mi è stato regalato di Roberto Giardina, In difesa delle donne rosse. Ah, quindi ecco, sì. Che meraviglia, però insomma, direttore, noi ci siamo sull'attenti, ribadisco, di fronte al nostro Luca Didi. Io sono Luca Didi su Twitter. Mannaggia. sembri un po' come quelli che salgono sul carro del vincitore del Partito Democratico, cara Paola, in questo momento. E ce ne sono. Sentite D'Alema addirittura dice che come gli innamoratini si manda gli sms con Renzi. Noi ci scambiamo i messaggi come fanno i ragazzi. Diciamo. Non faccio nome su WhatsApp, anche voi politici usate i social network. Ci scambiamo messaggi, ci scambiamo impressioni, eccetera. Il Presidente del Consiglio, questo è un uomo molto, molto avvicinabile, molto semplice, ha mantenuto uno stile, devo dire, molto simpatico. Ma voi vi rendete conto? Ma ci rendiamo conto? Però va detto, sì. Un cambiamento c'è stato, no? Sì, ecco, l'anima cannibale di chi abitualmente aveva l'abitudine, cioè chiedo scusa per la ripetizione, sono le 6:30 del mattino, di mangiare i propri figli migliori, evidentemente ha fatto sì che si cambiasse dieta. Ma perché solo perché tutti... ha vinto, ma solo perché ha vinto. Ma, cioè, ma se prendeva, se arrivava a 5 punti percentuali da Beppe Grillo, dal Movimento 5 Stelle, io volevo vederli tutti questi sul carro del vicino. Non lo so, forse sono troppo duro. Luca Dini, tu che ne pensi? Vedi tanti... No, no. Hai perfettamente ragione. Devo dire, l'unico che, infatti, l'eleganza non si smentisce, io ho trovato l'unico bel commento è stato, cioè, sincero, è stato quello di Veltroni, che peraltro quello che lo aveva detto anche in tempi non sospetti. È bravo perché ha avuto la grinta che io non ho saputo tirare fuori. Era sincero. Sì, devo dire che non lo so, cioè a me sentire, per carità, D'Alema che sghignazza, ci mandiamo gli sms come i ragazzi, ma io non... Però di piuttosto, direttore, che hai aperto con questo psicodramma del colore delle mutande di coda. Va bene tutto, però insomma alle 6:30 del mattino il colore delle mutande di coda, che peraltro non erano verdi. Bene, vabbè, insomma, ma comunque si accettano pantoni. Esatto. Secondo te, caro direttore, di che colore erano le mutande? Rosse. Vabbè, portano fortuna. Bene. Mutande rosse. E vabbè, che dobbiamo fare? Ho scritto Bresso. Con scritto Bresso. Ah, Bresso, pensavo la città, no? Mercedes Bresso, no? No, che immagine terribile che ci hai regalato. Va bene, che dobbiamo fare? Comunque, insomma, non vedete questo carro del vincitore che si sta riempiendo. Tu, Paola, lo vedi poco, no? Dici? Questo c'è chiaramente, è ovvio, c'è tutto e questo fa sì che la storia ripeta se stessa. Adesso c'è da lavorare tanto, tantissimo, perché adesso l'attesa c'è stata, l'attesa è stata premiata e per quelli che gli vogliono bene e per quelli che gliene volevano solennemente di meno. Nel secondo caso è stata premiata dalla sorpresa, dal "ah, guarda questo dove è arrivato", adesso c'è da fare tutto. E quindi ora il sostegno dovrà essere vero, dovrà essere reale, perché tempo, come giustamente ha detto fin dal primo minuto Renzi, che è un uomo che vive di corsa, tempo non ce n'è. Non ce n'è. Allora, ma io vorrei però capire che sta succedendo a D'Alema, sentite ancora questo, non lo so, ieri D'Alema dove ha iniziato a parlare, sentite dopo gli sms con Renzi cosa racconta su Veltroni. Veltroni mi ha invitato a vedere questo suo film su Berlinguer, eravamo io e lui, da soli, al cinema Fiamma, e seduto uno accanto all'altro, e quando siamo arrivati alle scene finali del film ci siamo tutti e due commossi. Se uno ci avesse visto lì, uno accanto all'altro, diciamo, con le lacrime agli occhi, Berlinguer... Siccome ma vi rendete conto? Si dice che noi D'Alema e Veltroni da soli al cinema a vedere il film su Berlinguer. Ma ragazzi, ma io non lo so. Luca, di qualcosa a te, questa scena con loro che si commuovono. La scena è da film dell'orrore, in realtà. Esatto, altro che il film su Berlinguer. Però quella è stata una grande idea dell'autore, dell'autore regista, che ha detto: intanto visione singola, più che privata, singola con te. Sì, e andiamoci a vedere questo film. Ma mi sa che erano giudici ad aver pagato il biglietto, evidentemente. No, io l'ho letta così, cioè non eravamo soli per la proiezione singola, no. Tu dici che no, invece... è stato un invito per proiezione singola. Prima di tutto lo faccio vedere a te. Lo faccio vedere a te. Andiamo. E quindi la commozione forse era data anche da questo. Vabbè, no? Comunque, se Renzi deve capitalizzare questa vittoria, c'è invece lo psicodramma del Movimento 5 Stelle. Dite la verità, io vi seguo un po' su Twitter. Luca, di la verità che un pochino sei contento, no? Ti seguo. Così diamo anche il tuo profilo Twitter. Allora, ieri l'abbiamo fatto... Non posso nascondermi, perché quello che ho scritto questi ultimi due giorni lo scrivo anche prima. Cioè, io non sono contento per il risultato in sé, non ce l'ho con nessuno. Sono contento che non siano stati premiati quei toni. Sono molto contento che non sono stati premiati quei toni. Quindi secondo te proprio ha pagato il Movimento 5 Stelle quei toni di Beppe Grillo, no? Il fatto di urlare ha spaventato non gli solo, italiani. Non solo di Beppe Grillo, perché poi erano stati contagiati, quella tracotanza per cui o la pensi come me oppure sei un farabutto sostanzialmente, non è giusto, perché non è così, non si fa così. Non si fa così, sono i toni. No. Sono i toni. Ma cosa c'hai tra l'altro? L'auricolare? Mi arrivano i messaggi di Luca Dini non si sente bene, alzi la voce, devi svegliare tutti quelli che sono in casa con te. Non lo so, c'è il telefono. Adesso. No. Sentite meglio adesso? Adesso un pochino sì. Comunque i toni sono... dei toni? Sì. No, stiamo parlando dei toni, Luca Dini deve alzare la voce. Esatto, visto che devi urlare un po'. Fai più Beppe Grillo, insomma, di qualcosa, sì Beppe Grillo in questo momento. No, c'è da dire che oggi sui giornali è pieno di interviste anche di deputati del Movimento 5 Stelle che dicono adesso basta, cioè Beppe Grillo, addirittura c'è questo Tommaso Currò che dice Beppe Grillo si faccia da parte, si dimetta e cacciatemi adesso se avete il coraggio, lo dico apertamente, lo dice in un'intervista a Repubblica. Insomma, Paola Saluzzi, arriva un po' una resa dei conti secondo te nel Movimento 5 Stelle? Cerotti, molti all'interno del movimento che sono convinti, se no non ne farebbero parte, delle idee portate avanti da un movimento che ha comunque cambiato la piega del pantalone, come posso dire, a molte situazioni nel nostro paese, questo non va dimenticato. Adesso possono parlare con maggiore libertà rispetto a quanto non accadesse prima, nel senso che questa chiamata ai toni più cauti e più educati, se così possiamo dire, una persona educata può dire tutto quello che vuole e arriva anche a segno. Ecco, prima non era possibile neanche dirla una frase del genere, adesso queste persone, ribadisco, modello Pizzarotti ieri gli ha fatto una bella intervista il Fatto Quotidiano con Liuzzi, ha detto cambiamo modo, perché se noi cambiamo modo facciamo passare le nostre idee, se tutto diventa i tribunali del popolo, quando tu arrivi ai tribunali del popolo non va bene. La mattina dopo le elezioni io ho fatto il mio bravo giro davanti al Quirinale per andare a vedere che fosse tutto lì e non ci fossero persone davanti che volessero tirare fuori a forza l'uomo che lì abita dentro. Insomma, ecco, questi sono toni che secondo me non hanno premiato, e meno male che non hanno premiato. Non sto parlando di una considerazione politica, ma da un punto di vista, come dei dire, toni, di vivere di comunicazione. No, ecco. Sì, tra l'altro, ecco, allora ricordiamo il tuo profilo. Già abbiamo Marine Le Pen. Ecco, però ricordiamo a questo punto, dopo la tua critica, ricordiamo il tuo profilo Twitter, così tutti i grillini possono prendere nota. Ma già lo fanno. Paola_Saluzzi. Linetta Bassa Saluzzi. Questo... Ma già chiacchierò tanto con tanti grillini che si arrabbiano. Ma da oggi chiacchiererai un po' di più. Tra l'altro, tu hai citato Pizzarotti. Devo fare un appello pubblico. Pubblico, caro sindaco di Parma, Pizzarotti, tutti i giorni ti mandiamo un messaggio, tutti i giorni succede questo, Elisabetta Fusconi, dico, prova a sentire Pizzarotti, tutti i giorni gli manda un messaggio, caro sindaco, perché non fa un'intervista con noi 24 mattino? Tutti i giorni, dopo 30 secondi ci risponde, no grazie, tutti i giorni, no grazie. Pizzarotti, no. Andiamo? Su, dai, Saluzzi, fai un appello, Luca Dini, puoi fare un appello al sindaco Pizzarotti di venire da noi? Volentieri, però posso dire una cosa? Sì. Che secondo me le interviste dei cittadini oggi, di quelli eletti, sono un po' come le dichiarazioni di D'Alema, perché non è vero che non potevano parlare. Io le avrei volute sentire anche un mese fa queste cose. Dire abbassate i toni, ma in campagna elettorale. Bisogna avere il coraggio di dire quello che si pensa. Se poi si viene espulsi vuol dire che il movimento non ti merita. È un pochino comodo parlare adesso, secondo me. Capite, caro Luca Dini dice adesso è facile, come salire sul carro del vincitore e fare le critiche postume. Comunque, perché quando si insultavano le deputate del PD, nessuno ha parlato, neanche le donne. Allora ricordiamo anche il profilo Twitter, sono Luca Dini, questo è il profilo Twitter del direttore di Vanity Fair, che anche lui attacca il Movimento 5 Stelle. Ieri l'abbiamo fatto con Vincino, poi l'hanno massacrato. Siete pronti a una giornata intensa su Twitter, caro? No, io aggiungo anche, scusami Alessandro, se qualcuno mi vuole anche scrivere sulle considerazioni che faccio circa ribadisco, la Le Pen, che con grande orgoglio sì. ieri ha detto di volersi alleare con Alba Dorata, scrive anche su questo, perché ci manca la Le Pen, di cui padre dice che le camere a gas sono un dettaglio della storia, sì. che dice... Quasi quasi facciamo gruppo con Alba Dorata e con la Lega. Mi affido alle persone pensanti della Lega, d'accordo? Quelli pensanti che esistono in tutti i settori, quasi tutti, sicuramente esistono all'interno della Lega, di fronte ad una mostruosità del genere. Oggi alle 12 mi risulta Salvini e la Le Pen si vedono per stringere questo accordo. Googlare Alba Dorata per capire di chi in Grecia, parlando. In Grecia. La fabbrica dei mostri. Andiamo a sentire un attimo le informazioni sul traffico e poi la segreteria, poi ripartiamo da qui. 24 mattino. Come al solito, Alessandro, in Italia i perdenti hanno sempre vinto. Egregio Alessandro, il guaio dell'Italia è che a comandare sono tutti laureati, ma non laureati alla Sapienza, laureati alla Bocconi. Caro Milan, gli italiani sono sempre soliti, sono quelli dell'8 settembre. Ci vendiamo l'anima per 40 denari. Quando fra 15 giorni ci sarà la TASI, voglio vedere quelli del PD, del Partito Democristiano, cosa diranno. Dovrebbe pensare a darsi una sistematina ai capelli, lui e Casaleggio, e non fare la pubblicità al Malox. Non esiste reato di pubblicità occulta, che si prenda un tranquillante, parla un ex farmacista. Che il braccio destro di Grillo, un ex comico, gli dica che adesso deve sorridere di più, siamo proprio la frutta. Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente, ma come, si meraviglia tanto che De Mita fa il sindaco eletto, sindaco di Nusco, a 86 anni. E come mai non si meraviglia di Napolitano, che c'ha qualche anno in più e fa il capo della Repubblica tutta? Quello non può fare il sindaco di un piccolo paese. Ma che dite? Chiaro, quello è più lucido di te e di tanti altri. Roba da matti, roba da matti. Pensi? Vabbè, insomma, non tutti salgono sul carro del vincitore, cara Paola Saluzzi. Sì, c'è qualcuno che non lo fa. Caro sì. Luca, cosa volevi dire? Qualcosa sulla Lega, sulle Pen? Sentivo. No, volevo dire complimenti a Salvini, che è orgoglioso di questa signora. Per carità, è una signora molto brava, molto capace, che però secondo me sarà uno di quegli incidenti della storia di cui i francesi si vergogneranno poi, quindi... Esserne orgoglioso oggi non è tanto furbo. Non è tanto furbo. Però tu, caro Luca, oggi hai fatto un'intervista politica, oggi avete fatto su Vanity Fair. Allora ti faccio sentire l'audio, l'audio e poi tu l'intervista. Il grande Razzi. Berlusconi, Forza Italia hanno perso. No, assolutamente. Se noi calcoliamo tutto il centrodestra che si sono divisi, pacchetti divisi, se quei pacchetti lo rimetti insieme hanno la stessa percentuale. Non ho molto capito. Comunque Antonio Razzi, intervistato anche da Vanity Fair, titolo dell'intervista: questo lo creto, sono anch'io. Anch'io sono talent. Ma cosa vi ha detto Razzi? Perché avete No, è un'intervista surreale. Immagino. L'abbiamo trascritta esattamente come è stata detta. No, non ci credo. Coi congiuntivi. No, non ci credo. Coi congiuntivi giusti. Ognuno deve fare la cosa per cui è talent. Per cui è talent, non so, avrà visto, avrà acceso la TV, avrà acceso X Factor. Voi pensate a una trasmissione radiofonica Razzi contadino di Terni? Oh, vabbè, sarebbero un duo. Sarebbe fantastico. Cioè, ma quindi avete fatto le interviste, proprio le risposte testuali. Sì, testuali. Congiuntivi inclusi. Però devo dire, la copertina di Vanity Fair è su Cesare Prandelli. Vabbè, arrivano i mondiali, la nazionale. Però voi avete raccontato che cosa? Cesare Prandelli che

stringerà un'alleanza formale, lo ha già fatto, ma oggi ci sarà l'ufficializzazione in Europa con Marine Le Pen, leader del Front National, che ha fatto il pieno di voti in Francia. Il presidente della comunità ebraica di Roma, Riccardo Pacifici, ha detto: ho contattato Salvini, ho contattato Maroni, a dire non fatelo, perché se vi alleate al Front National sarete considerati un partito xenofobo. Ma Matteo Salvini tira dritto, alleanza con Le Pen anche per appoggiare la politica della leader politica francese sul tema immigrazione. Cosa chiede sul tema immigrazione Marine Le Pen? In maniera molto semplice: l'Unione Europea chiuda le frontiere, come ieri ha detto in un'intervista al giornale il padre di Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, che è il fondatore di quel Front National, e ha aggiunto Jean-Marie Le Pen: gli immigrati che fuggono dalle guerre, dalle situazioni di carestia, dalle situazioni di difficoltà, quelli che magari hanno diritto a diventare profughi, al riconoscimento di status internazionale, beh, se ne vadano in Qatar, se ne vadano in Arabia Saudita, insomma se ne vadano nei paesi arabi ricchi. Noi vogliamo partire da qui per raccontare una vicenda che intreccia immigrazione, persone che fuggono dalle guerre. Per esempio, ricordate, settimana scorsa, il 21 maggio, su tutti i giornali c'era la notizia di questi 100 bambini, 100 più bambini che fuggivano, un'intera carretta del mare formata da bambini, ragazzini, per lo più dalla Siria. Beh, che fine hanno fatto? Spesso l'informazione racconta delle cose parziali, racconta l'inizio di alcune storie e poi non le segue. Vogliamo partire da qui per raccontare in un percorso quello che riguarda i temi dell'immigrazione e che si intrecciano con i temi della politica. Lo facciamo con un consigliere regionale della Lega che però è in procinto forse di capire, se non altro, se diventerà europarlamentare. Si tratta di Angelo Ciocca, che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Perché buongiorno. In procinto? Perché se rinuncia, siccome Salvini è stato eletto in più circoscrizioni, deve rinunciare, lei entro venerdì dovrebbe sapere, potrebbe diventare europarlamentare, diciamolo così brutalmente, no? Ma per ora, guardi, sono abituato a non aver fretta di invecchiare, quindi attende serenamente. Assaporiamo, diciamo, il sostegno che i grandi elettori della Lega ci hanno dato. Un grande risultato e dobbiamo essere contenti. Vabbè, ma questa insomma, certamente, poi vedremo se viene eletto. Saluto anche Carlotta Bellini, che è responsabile del Dipartimento Protezione Minori di Save the Children Italia. Buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno a voi. Allora, intanto Ciocca, iniziamo a capire cos'è la follia. Partiamo da Le Pen, poi ci spiega la follia che si è messa in testa. Lei dov'è adesso in questo momento? Ci parla da Ciocca? Uniti. Che sto andando. Non ho capito, mi scusi. San Genesio ed Uniti in provincia di. Ah, Parigi. Fantastico. E sta andando. Sta tornando a Lampedusa? No, sono andato a Lampedusa, ma questo settimana scorsa ci ritornerò. Una bellissima isola, un'isola. Sì. Dove c'è voglia sicuramente di Lega Nord, perché hanno votato per il 17% la Lega. E quindi ci hanno dato un segnale forte gli isolani. Sono arrabbiati contro questa clandestinità. Io ho registrato una forte tensione nei confronti degli isolani, nei confronti del governo, in quanto sono arrabbiati perché la clandestinità non è governata. Però ci spiegherà tra poco. Del viaggio parliamo tra poco, del tentativo abortito di fare un viaggio un po' pazzo. Prima però le chiedo: non vi imbarazza il fatto di allearvi a Marine Le Pen? Ma guardi, il ragionamento è molto semplice. Oggi penso che è sotto gli occhi di tutti, e tutti, qualcuno in modo chiaro e evidente come la Lega Nord, qualcuno un po' in modo imbarazzato, hanno detto durante la campagna elettorale che questa Europa non funziona. Quindi la sintesi qual è? Se dovessimo usare un termine di centrodestra diremmo: l'Europa attuale va formattata. Sì. Se dovessimo usare un termine di centrosinistra, l'Europa attuale va rottamata. Usiamo il termine che vogliamo, questa Europa va cambiata. Adesso bisogna capire qual è l'alleanza disponibile a cambiare questa Europa. Ho capito, però Marine Le Pen è considerata da molti un partito xenofobo. È vero che non è riducibile solo a questo in maniera brutale. Ha preso il pieno di voti anche tra gli operai, tra gli impiegati in Francia. Però ha sentito lì della comunità ebraica Pacifici, cioè non alleatevi a un partito che è considerato da molti xenofobo. La Le Pen ha dimostrato, secondo me, di avere una progettualità importante in un'Europa, ahimè, che non ragiona nell'ottica fondamentale. Qual è l'ottica fondamentale? Tutti cosa si aspettano dall'Europa? Che l'Unione fa la forza. Oggi invece l'Europa come si è comportata? Che le difficoltà dell'Italia dovevano essere il vantaggio della Germania. Sì, cioè, sì. Perché questa Europa non ci aiuta nella clandestinità, nel contrastare, nei respingimenti? Perché se lo zaino dei cittadini italiani è pesante, noi fatichiamo a correre, sì, e qualcuno ne approfitta. E ne approfitta. Tra l'altro, lei che cos'è che ha fatto? Mi spieghi un attimo, è partito con una barca da Lampedusa con 5 disoccupati italiani, con un'operazione che ha voluto chiamare Mare Vostrum, no? Per cercare di portarli. Mare Vostro, perché Mare Vostrum in latino non, vabbè, non esiste. Insomma, Mare Vostro, Mare Vostro. Ecco. E Mare Vostro, e le dico la verità, la conclusione del ragionamento era Mare Vostro, ma lavoro nostro. Nel senso che. Sì, ma voleva portarli dove, questi disoccupati? Voleva portarli dove? Sulle coste africane, i 5 disoccupati erano destinati, una piccola delegazione di disoccupati erano destinati a raggiungere le coste africane. Abbiamo dovuto abbandonare il primo tempo, ma ci sarà un secondo tempo di questo viaggio, perché purtroppo ovviamente mi stava a cuore anche la salute di questi disoccupati, e 2 di questi disoccupati purtroppo per mal di mare erano in difficoltà, e quindi abbiamo preferito salvaguardare la salute di queste persone. Almeno avranno capito le difficoltà che ci sono a volte per la disperazione di affrontare il Mediterraneo. Guardi, no, perché ci hanno confermato che il viaggio che fanno solitamente dall'Africa verso le coste italiane viene fatto con mare non a forza 8, noi avevamo un mare forza 8, quindi bisogna scegliere dei giorni differenti rispetto a quello che da inesperti abbiamo scelto noi, però questo errore non lo faremo però più. Lo rifarete col mare piatto. Però guardi, Ciocca, mi faccia sentire, guardi, perché lei ha fatto questo viaggio a ritroso, al contrario, un viaggio che però è, come detto, abortito, ma lo rifarete, che è uno di quei viaggi che fanno le persone che magari disperate attraversano il Mediterraneo per venire da noi. Mi ha molto colpito, per esempio, mi ha molto colpito per esempio la vicenda di quei bambini che sono arrivati lo scorso maggio, il 21, approdati sulle coste italiane. Carlotta Bellini, questi bambini da dove venivano? Allora, gran parte dei bambini più piccoli venivano dalla Siria e sono arrivati con le loro famiglie. Invece c'erano anche adolescenti e venivano soprattutto dall'Egitto. Devo però anche, vorrei ricordare che al di là di quello sbarco, domenica c'è stato un altro sbarco, e in quello sbarco di circa ancora 500 persone, su circa 500, 260 erano minori. Quindi questo significa che il numero dei minori è sempre più consistente. Ecco, ma che fine fanno? Perché la stampa ha raccontato anche con grande enfasi e anche trasporto umano questa vicenda. E poi dopo, questi bambini che fine hanno fatto? Allora, di fatto quello che sta succedendo è che per i bambini siriani e le loro famiglie il viaggio non è finito, quindi non termina sicuramente con il loro ingresso in Sicilia. Infatti vogliono soprattutto raggiungere i paesi del nord Europa e in particolare la Svezia. Quindi gran parte, per esempio, delle famiglie che sono arrivate nello sbarco che lei menziona sono poi ripartite, tant'è vero che poi sono arrivate a Milano e ripartite da lì, quindi il loro tragitto sicuramente prosegue. Ma così voglio dire, sono liberi di poter girare, non dovrebbero essere identificati? Cioè, come funziona dal punto di vista tecnico? Sì, vengono, diciamo, l'identificazione avviene, evidentemente non sempre si può concludere il processo di fotosegnalamento, quindi questo significa che al di là del nome, della registrazione e anche della foto, che comunque per esempio anche per loro è sicuramente stata fatta, magari la procedura non è terminata e quindi non sono state prese le impronte. Gran parte di loro comunque entro poche ore se ne vanno e quindi poi proseguono. Questa è la verità non solo per i bambini piccoli con le loro famiglie, ma anche per esempio per i ragazzini eritrei. Cioè molti di questi non vogliono neanche stare in Italia, abbiamo detto tante volte, l'Italia è un punto d'approdo. Però vorrei capire, Ciocca, lei quella nave con quei 100 bambini che avrebbe fatto? Secondo la logica dei respingimenti avremmo dovuto respingerla, no? Intanto ringrazio il collegamento con la Bellini e ringrazio appunto il lavoro che loro fanno. Io ci tengo a dire che fanno un lavoro importante e di questo li ringrazio. Oggi dobbiamo però mettere davanti il quadro generale. Noi in questo momento in 4 mesi abbiamo avuto 30.000 sbarchi, 30.000 sbarchi e 100 bambini. Quindi oggi qual è il tema? Il tema è un po' perché... di più magari, però insomma. Un po' di più, non c'era solo quel 100, però anche parliamo altre di 30, arriverò bambini. Parliamo di 30.000 sbarchi di persone che pensano di arrivare in Italia per cambiare la loro condizione economica. Questo è il motivo reale e l'Italia oggi è in condizione di offrire loro un'opportunità, sì o no? La risposta è ovvia, davanti agli occhi di tutti è no. Quindi continuare a illudere queste persone che in Italia possono trovare casa, lavoro e speranza è una presa in giro. Cioè, questo viaggio che abbiamo fatto con 5 disoccupati aveva 2 obiettivi. Il primo obiettivo era quello di dare un messaggio a questi popoli che in questo momento l'Italia non ha. Ma secondo lei, se arrivano 5 disoccupati lì in Libia, arriva questo messaggio che l'Italia non ha? No, io le dico la verità, io mi auguro che il governo copi questa idea. Lei non so se ha visto il mio progetto, il mio spot fatto con 5 stranieri. Io ho scelto. Sì, Ciocca è quello che ha fatto lo spot con 5 stranieri che dicono nelle lingue madre: non venite qui in Italia, cari compatrioti, perché non c'è lavoro. Perché l'Italia sta attraversando un momento difficile e non date i vostri soldi agli scafisti assassini che approfittano di voi. Sì. 4 giorni dopo questo spot è successo quello che, ahimè, è noto a tutti, è affondata una delle baracche del mare con su appunto dei clandestini. Ecco, oggi qual è il messaggio che io mi auguro che il governo raccolga? Che questi popoli vanno informati, uno vanno aiutati a casa loro. Non è che sono, a volte, guardi, sono molto più informati di quanto si pensa. Per esempio sulle condizioni del mare più di voi. Questo perché li informano gli scafisti assassini. Siccome gli scafisti assassini che li mettono sulle barche sanno come agire sul mare, perché loro... ahimè lavoro, ma non li informano, o meglio li prendono in giro invece raccontandogli che in Italia ci possono essere allora opportunità. Insomma, questo è il messaggio molto chiaro che voi volete dare, invece non è la terra delle opportunità. Io però, nel ringraziarvi, vi dico che tra pochi minuti, dopo la pubblicità, tra 4 minuti avremo in diretta dalla nave San Giorgio, che è la nave della Marina Militare dove è posto il comando della missione Mare Nostrum, il comandante Aldo Dolfini, il comandante della nave San Giorgio. Vogliamo avere anche il punto di vista dei militari, il racconto di cosa fanno quotidianamente. Giusto ieri sono stati tratti in salvo dalla mare e dalla Marina Militare, quindi dalla San Giorgio, 357 migranti che erano per mare. 24 mattino. Eccoci qua nuovamente in diretta su Radio 24 alle 8:37 minuti. Allora, per parlare di immigrazione spesso si fa sentire le parole dei politici, anche noi li invitiamo, ma i diretti protagonisti, quelli che sono sul campo, in questo caso sul mare, parlano raramente. La scorsa settimana Mario Calabresi, direttore della Stampa, ha scritto: mi attirerò una bella dose di critiche, ma voglio dire che sono orgoglioso di appartenere a una nazione che manda i militari a salvare le famiglie e non a sparargli addosso. Commentava l'arrivo della carretta del mare con 100 bambini provenienti per lo più dalla Siria. Noi siamo in collegamento, io lo ringrazio molto, con il capitano di vascello Aldo Dolfini, che è comandante della nave San Giorgio, dove è la base, il comando della missione Mare Nostrum. Comandante, buongiorno. Buongiorno a voi, amici ascolti. Allora, intanto, dove siete? State incrociando ovviamente il canale di Sicilia, ma dove esattamente? Sì, la posizione in cui ci troviamo attualmente è circa un'ottantina di miglia a sud di Lampedusa, è una zona in cui stiamo transitando per avere il controllo delle aree circostanti. Ecco, già ieri, comandante, siete dovuti intervenire per salvare dei migranti in difficoltà, perché ricordiamo che Mare Nostrum ha come uno dei due obiettivi principali quello la salvaguardia della vita in mare. Ci può raccontare ieri che intervento avete fatto? Sì, esattamente, uno dei due obiettivi è proprio quello di fare in modo che non si vengano a ricreare quelle situazioni tragiche in cui abbiamo assistito e purtroppo anche ultimamente sappiamo si sono verificate in zone molto prossime alla costa libica. Nella giornata di ieri sostanzialmente siamo stati informati della presenza di un possibile natante in difficoltà e a quel punto abbiamo prima lanciato l'elicottero organico per fare un'investigazione diretta che ha confermato la presenza di questo natante con molti migranti a bordo, un numero che è stato stimato inizialmente oltre i 200. A quel punto abbiamo diretto alla massima velocità sostenibile verso il natante proprio per verificare direttamente le condizioni. L'attività che svolgiamo normalmente ormai si muove su binari consolidati. In pratica mettiamo a mare i mezzi minori, che sono dei mezzi molto manovrieri, si tratta di gommoni o di diverse dimensioni, proprio per avvicinarci al natante, investigare, verificare se esistono le dotazioni di sicurezza, se ci sono problematiche e ovviamente nel caso in cui le condizioni siano critiche o venga, come normalmente succede, una richiesta di soccorso, sì. A quel punto non possiamo esimerci. Certo. Però, comandante, le chiedo, ovviamente voi siete militare, eseguite gli ordini, c'è anche spazio per considerazioni umane che fate su quello che è spesso la tragedia, a volte il fenomeno dell'immigrazione per mare? Guardi, quello che le posso dire personalmente è cosa che penso sia vissuta da tutti i membri dell'equipaggio, non è mai così facile rispondere agli ordini. In queste condizioni il coinvolgimento, quello che si vede, la sensazione intima di stare a fare qualcosa di giusto, di veramente giusto, perché salvare vite, strappare vite alla morte, cosa che veramente è successa, ci porta ad agire rispondendo agli ordini veramente con facilità. Uno degli altri compiti, o meglio il secondo compito, è quello di assicurare alla giustizia gli scafisti, quelli che lucrano sul traffico illegale. Ecco, questa parte è complicata o è facile? Perché spesso si dice che gli scafisti non sono facilmente identificabili. Che vuol dire? Allora, la difficoltà di riconoscere gli scafisti sta nel fatto che chiaramente nel momento in cui i mezzi si avvicinano pongono in essere delle azioni tali da non farsi riconoscere, quindi ovviamente si allontanano dalla zona di timoneria, si allontanano dai motori. Abbiamo delle tecniche che permettono di rilevare, di controllare i natanti anche a grandissima distanza e poi tecniche che ci permettono, una volta in prossimità del natante, di individuare quali sono le persone che effettivamente erano deputate alla condotta sia dalla parte meccanica che alla guida del mezzo. Voi, comandante, sentite l'appoggio in qualche modo? Quando mi ha colpito molto quando il direttore della stampa ha scritto quella frase: sono orgoglioso che abbiamo un paese con militari che vanno a salvare le persone invece che a spararli addosso. Sentite l'appoggio e vivete con quale distacco le polemiche anche politiche che ci sono su un tema così delicato? Per quanto riguarda le polemiche, sono cose che fanno parte del quotidiano. Può pensare la cosa, inquadrarla nella sua ottica. Quello che noi sentiamo di fare, che facciamo e sentiamo, è che facciamo qualche cosa di giusto. Personalmente non penso si possa pensare di lasciare in mare qualcuno sapendo che da là qualche ora può essere morto. Cosa di cui abbiamo avuto certezza durante alcuni eventi SAR, dove veramente siamo riusciti a fare l'intervento in condizioni meteo marittime particolarmente difficile, addirittura siamo stati obbligati in una situazione a portare il barcone all'interno della nave per poter salvare i migranti. Questo per darvi un'idea delle difficoltà che certe volte si affrontano è la conferma che se non fossimo intervenuti tutte quelle persone sarebbero sicuramente morte, sicuramente morte. Personalmente non penso si possa voltare la testa dall'altra parte. Le chiedo questo, ovviamente non è una considerazione politica, lungi da me e lungi da lei dal farla, ma tecnicamente quando si parla di respingimenti come qualcuno chiede, tecnicamente è possibile farli e come sarebbe possibile? Cioè come avverrebbe un respingimento invece dell'iniziativa che fate voi? Guardi, queste sono attività che vengono pianificate, decise, valutate a livelli che non sono il mio, quindi sicuramente sono operazioni di un'altra tipologia che richiedono le necessarie valutazioni. Al mio livello, io come comandante in mare faccio ciò che è il mio dovere, che ripeto corrisponde a ciò che tutti sentiamo. Questo certamente. Di fronte invece agli scafisti non si riesce neanche a ottenere l'aiuto delle persone, dei migranti, nell'indicarli, o c'è omertà da questo punto di vista? Questa è una difficoltà oggettiva? Diciamo che ci sono situazioni in cui c'è stata la partecipazione dei migranti che ci hanno permesso anche loro con le loro indicazioni di individuare quelli che sono gli scafisti. Ovviamente queste sono cose che devono essere trattate con la necessaria cura, anche perché dobbiamo ricordare chi è riuscito a partire ed è arrivato ha lasciato alle sue spalle anche familiari, conoscenti sui quali ci potrebbe essere anche il rischio della vendetta da parte di questa gente che lucra e che noi cerchiamo di assicurare in tutti i modi alla giustizia. L'ultima domanda, comandante, che le voglio fare è questa: ci sono previsioni, perché spesso si dice ci sono tantissime migliaia di persone che premono dalle coste africane per arrivare, anche voi avete dei segnali di questo tipo, oppure voi intervenite solo nel momento del bisogno? L'attività che noi svolgiamo è un'attività sul campo, anzi come ha detto lei giustamente sul mare, quindi si estrinseca essenzialmente nel controllo delle linee di traffico e nell'intervento laddove ci fosse la necessità. Vi limitate a questo, giustamente. Io intanto allora, comandante, la ringrazio per essere stato con noi, davvero molto, molte grazie, perché in diretta dalla nave dall'unità San Giorgio della Marina Militare Italiana, che è il comando del Mare Nostrum, l'operazione umanitaria per salvare le vite in mare e assicurare gli scafisti alla giustizia. Questo era la testimonianza del comandante Aldo Dolfini, capitano di vascello della Marina Militare Italiana. Siccome abbiamo iniziato questo percorso raccontando anche e dicendo dei 100 bambini, molti arrivati dalla Siria, sbarcati la scorsa settimana in Italia, noi in Siria e di quello che succede in Siria, e in particolare sulla figura di una persona di cui si sono perse le tracce, un padre gesuita, Claudio Dall'Oglio, che noi abbiamo ospitato un mese prima che venisse rapito, vogliamo ripartire dopo il traffico nell'ultima parte di 24 mattino. Allora, un anno fa circa ospitammo padre Carlo Dall'Oglio. Chi è padre Carlo Dall'Oglio? Io uso il presente. Chi è? E voglio salutare Carlo Panella, giornalista del Foglio di Libero. Buongiorno Carlo, eccoci qua. Buongiorno. Io uso Paolo il presente. Dall'Oglio. Sì, Paolo Dall'Oglio. Io uso il presente. Chi è? Perché è stato rapito in Siria. Ieri anche tu scrivevi su Libero, secondo alcune testimonianze è stato ucciso subito dopo il rapimento. Oggi queste testimonianze qualcuno le mette in dubbio? Intanto che cosa si sa di questo padre gesuita che tu hai incontrato? Ieri ne hai scritto uno straordinario pezzo su Libero. Sì, io l'ho incontrato alcuni anni fa, 5 anni fa, a Marmusa, che è un posto stupendo in cui purtroppo non si può andare oggi perché in Siria non si può andare. È un rifugio di anacoreti con una chiesa del VI secolo d.C. che lui aveva trasformato con un tocco magico proprio da soldato di Cristo in un centro importante di attrazione, non soltanto per la cristianità, non soltanto per il dialogo tra fedi, ma insomma, è un cuore pulsante di vita. Dall'Oglio è un gesuita, è un uomo massiccio, intelligente, forte, insomma, un classico gesuita del Seicento, insomma, tipo Mission, no? Sì, ma certo. Pacato, calmo, intelligente, che ha scritto una lettera molto dura al pontefice, al papa, pochi giorni prima di scomparire, perché ribadiva il fatto che in Siria non si può essere pacifisti assoluti, che bisogna pensare ai concetti di guerra giusta per difendere, esatto, gli innocenti. Chiedeva la necessità e implorava la necessità di intervenire, sì, contro quello che definiva il regime di Assad. Infatti, sì. Carlo, ti faccio sentire proprio il Paolo Dall'Oglio che invitammo il 3 giugno, era il 3 giugno dell'anno scorso, un mese e mezzo prima. Sentite cosa ci disse. È un anno e mezzo che parliamo della necessità morale di scegliere tra un intervento diretto come in Libia o un intervento indiretto attraverso la scelta delle armi giuste per bloccare il bombardamento sistematico del popolo siriano ed ora anche l'uso dimostrato, l'uso del chimico da parte del governo siriano nei confronti del popolo siriano. Padre Paolo Dall'Oglio, noi abbiamo 30 secondi per chiudere, noi la richiameremo quando tratteremo questo tema. Lei perché è stato espulso dalla Siria, se ce lo può dire in 30 secondi? Perché ho cercato di dire la verità e ho cercato di difendere i miei amici, i giovani siriani, cristiani, musulmani, alawiti, drusi, democratici, che chiedono libertà in nome dei diritti fondamentali della persona umana. Ho detto la verità e sono stato cacciato. Insomma, così parlava Carlo Pannella, poi non c'è stato purtroppo la possibilità di richiamarlo, no? Parlava di governo mafioso, sentite che parole che usava, no? Questo padre gesuita. Sì, il governo siriano è un governo di macellai e purtroppo il problema è che nessuno ha ascoltato, non soltanto nella Chiesa, ma è comprensibile, guardate, perché il problema, per capire il dramma di Paolo Dall'Oglio, dobbiamo tenere conto di una cosa molto importante: larga parte della comunità cristiana e anche delle gerarchie cristiane della Siria, sono il 10% cristiani in Siria, stanno con il regime, stanno con gli assassini. Questo è un dato che bisogna non dimenticare mai. La stessa cosa succedeva in Iraq con Saddam Hussein. Il regime Battista ha avuto la capacità di cooptare i cristiani e questo rende ancora più importante e fulgida anche la figura di Dall'Oglio, che non si è lasciato imbrigliare da questioni di opportunità, ma semplicemente ha difeso quello che sentiva il popolo sì, vicino. Purtroppo però non si hanno veramente notizie. Perché dobbiamo credere a quella persona che dice è stato rapito e subito giustiziato? Dobbiamo credere perché vogliamo bene a Dall'Oglio. Questa mi pare che sia la ragione fondamentale, perché è un personaggio prezioso, ragionando da chi purtroppo conosce queste vicende, non sono molto ottimista per una ragione molto semplice. Abbiamo una testimonianza di un jihadista che dice di sapere dai nomi che lui è stato assassinato subito dopo che è arrivato a Rahman, per trattare la liberazione di ostaggi, quindi una missione umanitaria, e abbiamo dall'altra parte delle assicurazioni che forse arriverà un messaggio video per fare una trattativa. Sta di fatto che è passato quasi un anno e non si sanno e non è stato chiesto il riscatto, non si è avviata la trattativa. Insomma, una speranza c'è e poi ci deve essere. Perché è vero anche, Carlo, che ieri è stato rilasciato un cooperante che era stato rapito in Siria, che ha detto sono stato torturato, non si sapeva nulla neanche del suo sequestro. Cioè non, quindi, sì, però c'erano dei contatti. Comunque, insomma, comunque sia, il vero tema è quello di cui credo che anche Paolo vorrebbe parlasse, e come abbiamo potuto non ascoltare anche la sua voce in Occidente, lasciando che venissero massacrati ormai 160.000 siriani impunemente. Però mi risulta, oggi lo scrive il Foglio, che oggi Obama potrebbe dare una svolta, sì, potrebbe sì, dare una svolta, cioè dire, potrebbe dire aiutiamo con le armi i ribelli in Siria. Certo, è vero? No, non con le armi, addestrandoli. Addestrandoli. Una cosa vergognosa, insomma, tutto questo andava fatto 2 anni fa, prima ancora che Paolo Dall'Oglio ne parlasse, aiutando semplicemente quegli 8.000-10.000 disertori dell'esercito siriano che avevano sino schierati con le manifestazioni di massa e combattevano contro Assad. Questo non è stato fatto, nonostante pressioni interne all'amministrazione americana. Noi europei siamo stati vergognosi, come è stata vergognosa l'America. È saltata la linea con Panella, ma insomma il messaggio comunque era chiaro. Io quello che posso dire è che voglio veramente sperare, ne parlo al presente, di padre Paolo Dall'Oglio, gesuita, che ripeto da un anno è detenuto in Siria. No, mi spiace, non riusciamo a recuperare Carlo Panella, ma insomma, perché stiamo chiudendo, ma il concetto che ci ha espresso è chiaro. Pare che oggi Obama, che fa un discorso ai cadetti della Key West, possa dare una linea, dire addestriamo e aiutiamo la ribellione in Siria, diciamo gli oppositori al regime Assad, quelli per i quali si è speso tantissimo padre Paolo Dall'Oglio in prima persona. Ci fermiamo qui? Sì, con Miriam Lucchetti, Alessandro Marco Tulli e Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia. Vi diamo l'appuntamento come di consueto a domani, siamo sempre qui su Radio 24 alle 6:30 del mattino. Seguitemi anche sul profilo Twitter Alino Milan. A domani!